Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio, ultima puntata della settimana. Buona giornata da Deborah Rosciani. Ieri la Banca Centrale Europea ha dato un'altra sforbiciata ai tassi di interesse. Con il nuovo taglio di ieri, i tassi europei sono ritornati ai minimi storici, livello su cui hanno viaggiato fra il 2003 e il 2005, il 2%. Una situazione che si presta, se la dobbiamo legare al tema dei mutui, a molte considerazioni. Le rate quest'anno scenderanno di molto per tutti coloro che hanno ancora il mutuo a tasso variabile sottoscritto qualche tempo fa e magari non lo hanno rinegoziato. In molti negli ultimi mesi, infatti, per proteggersi da nuovi rialzi sono passati al tasso fisso. Altra importante considerazione: il livello raggiunto teoricamente vanifica quasi del tutto l'intervento che aveva predisposto il governo per fissare un tetto massimo del 4% sui mutui a tasso variabile, impegnandosi a sostenere il costo delle eccedenze. Le difficoltà organizzative da parte delle banche non mancano, naturalmente, anche se i tassi sono in discesa. C'è sicuramente anche qualcuno che almeno in questi primi due mesi di quest'anno sta ancora sostenendo un tasso leggermente superiore al 4%, visto che viene considerato al lordo dello spread, cioè del margine applicato sui tassi dalla banca. E allora stamattina ovviamente vale di nuovo la pena fare un punto della situazione. Non c'è notizia sui mutui che non passi al vaglio di Salva Danaio, e noi rifacciamo questo punto con i nostri due praticamente ormai interlocutori preferiti sull'argomento. Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online, bentornato. Grazie, ben ritrovati e un augurio a tutti gli ascoltatori. Di buon anno, infatti, non ce lo siamo fatti ancora. Roberto. Maximilian Cellino, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Non mancherà, credo, domani una pagina dedicata ai mutui, anche se il tema di copertina è un anno, è un altro, perché tornate sui fondi pensione. No, ti devo deludere, domani non parliamo di mutui. Guarda che bella figura che ho fatto. È stata la settimana scorsa e probabilmente anche la prossima, sì, visto infatti che ci sarà l'approvazione definitiva del Senato. Esattamente, infatti lì volevo arrivare. Il tema è anche quello, la questione del tetto del 4% è contenuta nel decreto anticrisi che è passato alla Camera, adesso ripassa di nuovo al Senato per l'approvazione definitiva. Comunque entro il 28 gennaio il provvedimento deve diventare legge, per cui da lì sarà forse anche più utile fare un punto definitivo della situazione e capire con che velocità o meno, no? Con che lentezza, chiamiamola così, le banche si adegueranno al provvedimento. Ma soprattutto oggi cerchiamo di capire se vale la pena parlarne, perché i tassi si stanno riducendo, quindi a questo punto chi non ha toccato il suo mutuo a tasso variabile negli ultimi anni in realtà ha visto il tasso di interesse riportarsi sotto il livello del 4%. Ne parleremo stamattina. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi. Iniziate subito a prenotarli se vorrete, oppure a scriverci al 349 238 6666. La borsa ci ha fatto di nuovo soffrire parecchio nelle ultime settimane. L'anno, come abbiamo detto più volte in questi giorni, era cominciato molto bene con i migliori auspici, le migliori promesse, poi completamente annullate da diversi giorni a questa parte. Stavamo intanto parlando della borsa, quindi di questioni finanziarie, e stavamo raccontando quella che era stata la tendenza dell'ultimo periodo, positiva all'inizio dell'anno, poi rapidamente annullata dalle nuove cattive notizie che continuano ad abbattersi sul mercato. Le banche sono ancora in profonda crisi, al punto da dover ancora richiedere gli interventi governativi. E di queste ore la notizia dell'intervento in Bank of America negli Stati Uniti, 20 miliardi di dollari come primo pacchetto di sostegno a questo colosso bancario. Ieri questa prospettiva aveva di nuovo fatto letteralmente crollare i titoli del settore dagli Stati Uniti all'Europa. Oggi invece la formalizzazione dell'intervento da parte del governo americano ridà sostegno ai titoli del settore in Europa, così come probabilmente oggi accadrà a Wall Street. Ecco le borse in questo momento: Parigi più 2,49, Francoforte più 2,19, Londra più 2%, Milano S&P MIB più 1,82, MIPTEL più 1,69%. Non scattano esattamente i temi bancari a Piazza Affari. Prismian, miglior titolo, più 7%, il gruppo ha ricevuto un giudizio buy, un giudizio comprare da parte di Goldman Sachs, e ovviamente gli investitori sono scattati all'acquisto. Generali più 3,38, Tenaris più 3,32. Nel settore bancario oggi beneficia di questa tendenza europea Unicredito più 2,90, e poi abbiamo un rialzo di oltre 2,5 punti per Impregilo, Eni, Fondiaria più 2% per Telecom, Intesa San Paolo e Mediolanum. Invece abbiamo nel settore bancario anche altri titoli che oggi hanno il segno meno davanti: perde 2 punti il Monte dei Paschi, meno 1,85% per la Popolare di Milano, meno 1,24% per UbiBanca. Quindi, come vedete, in realtà l'incertezza ancora regna sovrana e il settore non va tutto nella stessa direzione. inflazione. Euro su dollaro a 1,3277. Oggi conosceremo il dato sull'inflazione americana e soprattutto vedremo come il mercato reagirà appunto all'intervento che è stato deciso dall'amministrazione su Bank of America. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di questa mattina, ritorniamo sui mutui tra tassi di interesse e misure del governo. L'andamento dei tassi di interesse è un vero e proprio calvario per i mutuatari. Chi ha contratto un mutuo a tasso variabile e chi si appresta ad accendere un nuovo finanziamento ha tuttavia di che rallegrarsi. Il 2009, infatti, si è aperto sotto i migliori auspici. Proprio ieri la Banca Centrale Europea ha portato il costo del denaro al 2%, meno della metà dello scorso luglio e, secondo quanto affermato da Jean-Claude Trichet, presidente della BCE, non è escluso un nuovo taglio dei tassi a marzo. Intanto anche il governo si è mosso per venire incontro alle famiglie in difficoltà con il pagamento delle rate. Un tetto del 4% è previsto per tutto il 2009 sulle rate dei mutui a tasso variabile. E per chi invece si appresta a comprare casa, si apre la possibilità di indicizzare il mutuo al tasso BCE, meno soggetto alle variazioni rispetto all'Euribor. Eppure, non tutti sono tranquilli. Anche se al momento è improbabile un ritorno a scenari simili a quelli visti lo scorso autunno, quando l'Euribor a tre mesi quotava 5,39%, un anno di tranquillità non è molto rispetto ai 20 o 30 anni che molti mutuatari hanno ancora davanti. Per questo è indispensabile fare bene i conti e non cedere all'entusiasmo. Chi, ad esempio, intendesse accendere oggi un mutuo variabile, dovrebbe prepararsi a sostenere una rata che nei prossimi anni potrebbe aumentare anche del 25%. Attenzione poi agli spread. Se quest'estate le banche offrivano condizioni molto vantaggiose, ora, a fronte di una diminuzione dei tassi, gli istituti avrebbero aumentato gli spread in alcuni casi anche del doppio. Proprio ieri l'autorità di vigilanza, per bocca del suo presidente, Katri Kalà, ha fatto però sapere che vigilerà su eventuali aumenti ingiustificati. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi. Non vi dico già cosa sta accadendo ai nostri centralini, ma anche il nostro 349 238 6666, il numero per i vostri sms, comincia ad essere piuttosto intasato. Io direi che posso proprio cominciare con un messaggio di un ascoltatore che è Michele da Bergamo. Prima di parlare del provvedimento del governo, parliamo un po' di questa tendenza dell'Euribor che dovrebbe aver ridimensionato notevolmente le rate per molti sottoscrittori di mutuo a tasso variabile. Michele da Bergamo invece dice: la rata del mio mutuo non è ancora scesa di un solo centesimo. Roberto Nedda, cosa può essere successo? E questo è un messaggio che ricorre spesso, non ovviamente sempre dallo stesso ascoltatore, però come abbiamo spiegato più volte, dipende purtroppo, ma poi comunque la cosa si risolve in poco tempo, dalle condizioni di contratto del singolo mutuo, nel senso che ogni banca definisce a quale valore di Euribor si fa riferimento per l'aggiornamento mensile o trimestrale del tasso stesso. Quindi ad esempio ci sono banche che definiscono come data di rilevazione dell'Euribor la stessa data di scadenza della rata, molte altre prendono invece il valore dell'ultimo giorno del mese precedente la scadenza della rata, ma sono solo pochi esempi. In realtà ogni banca ha veramente una regola sua, non c'è una regola standard, e quindi nel caso specifico è probabile che l'indicizzazione prevista dal contratto preveda che magari il riferimento del valore dell'Euribor sia magari quello dei due mesi precedenti. Quindi questo cosa vuol dire? Che in questo caso l'ascoltatore fino adesso ovviamente non ha beneficiato della diminuzione dei tassi, ma quindi ha anche pagato con un certo ritardo l'aumento che prima c'è stato, e ovviamente dalle rate successive vedrà man mano concretizzarsi questa diminuzione. Ovviamente, visto che ancora la rata non è minimamente calata, se è un variabile standard, le prime rate non caleranno ancora tanto perché il grosso calo si è concretizzato tra dicembre e gennaio, quindi lui deve ancora vedere l'effetto innanzitutto del calo di ottobre, poi man mano di novembre e via via entrare proprio nella fase di indicizzazione ai livelli minimi di adesso. Per verificare può semplicemente recuperare il proprio contratto di mutuo, di cui dovrebbe avere copia a casa, anche se spesso poi non si sa più dove lo si mette. Andare a leggere proprio nella descrizione dell'indicizzazione del prodotto quale sia il valore o la data di riferimento per il quale si prende l'Euribor nel caso del suo mutuo. Tra l'altro, guarda, volevo adesso introdurre il tema dei provvedimenti del governo, ma invece continuo ancora su questo punto perché c'è anche una domanda di Giovanni da Ferrara, allora la sentiamo subito, così magari speriamo di chiarire tutti i dubbi di coloro che non hanno visto ancora alcun beneficio nella propria rata dalla diminuzione dei tassi di interesse in corso da qualche mese. Giovanni da Ferrara, allora, benvenuto. Buongiorno, dottoressa Rossani, grazie per avermi richiamato. Grazie a lei. Dunque, io infatti ho guardato l'Euribor, ce l'ho a 6 mesi, e non ho ancora visto purtroppo nessun beneficio nella rata. Ho contratto il mutuo nel 2003 a tasso variabile e guardando anche la rata già con la banca, che è stata sempre gentile, di gennaio, purtroppo non si vede ancora, diciamo, un calo. Se le occorrono altre cifre gliele dico ben volentieri. No, abbiamo capito la questione, Giovanni, non c'è bisogno che ci faccia la radiografia del mutuo. In altre circostanze abbiamo bisogno di qualche dettaglio in più, per questo caso invece la situazione c'è piuttosto chiara. Volevi intervenire, forse, Massimiliano? Forse magari sarebbe utile sapere quando viene rilevato questo Euribor. Borse mesi, le spiego perché ci sono dei mutui che per esempio fissano una volta ogni 2 anni il livello di tassi che uno deve pagare, magari a giugno di un anno per le rate che andranno dal gennaio, succede anche questo, dal gennaio al giugno dell'anno successivo, e quindi in questo caso lei magari ha fissato l'Euribor 6 mesi, che so io, a settembre o magari a ottobre, quando era ai massimi, e questo tasso se lo porterà avanti magari per i primi 6 mesi. E questa è una cosa che mi permette di riallacciarmi al discorso del tetto del 4%. Esatto. Si è detto che il calo degli Euribor vanifica teoricamente, vanifica, ma non per tutti. Esatto. Basta vedere appunto i messaggi che ci arrivano, che mi arrivano quotidianamente, vedo ci sono molti esempi di mutui che almeno nei primi 3, se non i primi 6 mesi del 2009 rientreranno, usufruiranno insomma di questo aiuto di Stato, e questo proprio perché hanno le rate parametrate a degli Euribor che sono stati calcolati nel momento in cui erano ancora particolarmente elevati. E quindi ecco, questo allora ci dà, come dire, Maximilia mi ha dato l'assist proprio per introdurre l'argomento dal quale volevamo partire oggi, e che poi, come sapete, quando parliamo di mutui in realtà come dire il tema si amplia a dismisura e gli ascoltatori ci pongono le situazioni più differenziate. Però Maximilian diceva la disposizione del governo non è del tutto teorica, come in realtà l'andamento dei tassi di interesse lascia suggerire, sicuramente meno corposa di quella che si sarebbe potuta pensare ed immaginare un anno fa, o addirittura solamente ad ottobre, quando l'Euribor era al 5,5% abbondante. Di fatto adesso probabilmente la platea degli interessati al provvedimento si è ridotta notevolmente. Detto questo, la dinamica adesso da capire è come si concretizzerà l'intervento per chi ne ha diritto. Roberto, ti do del tu perché tanto ormai siamo amici, sì. Ci conosciamo da 2000 anni. Voi che lavorate nel settore, intermediate mutui di molte banche, avete capito come funzionerà? Poi Maximilian ci racconterà anche ovviamente delle circolari che il Ministero ha fatto diramare in questo periodo, ma la dinamica della restituzione non è per niente chiara. Sì, non era chiara perché il decreto stesso, è in attesa di conversione in legge, non dava specifiche particolari. Infatti poi sono uscite alcune indicazioni successive, però pare che la dinamica dovrebbe essere quella di un rimborso diretto della differenza tra rata calcolata e quella calmierata, diciamo, con questo limite del 4%, o ricordiamo, non sempre il 4%, può essere un tasso più elevato se il tasso iniziale del mutuo, quando era stato sottoscritto, era superiore al 4%. Comunque la differenza dovrebbe essere riaccreditata normalmente al cliente, quindi il cliente cosa fa? Paga l'intera rata, ma contestualmente la banca gli riaccredita la differenza. Poi di come la banca recupera questi soldi con lo Stato, questo se lo vede con lo Stato in un'altra maniera. Pare però che il cliente si parli questo credito d'imposta, ma non ci interessa, ci interessa stare dalla parte del consumatore. Esatto, il cliente su questo non è toccato. È anche possibile, per quello che diverse volte abbiamo già cominciato a rilevare, che soprattutto nel mese di gennaio non tutte le banche siano già riuscite a mettere in piedi questo meccanismo, che comunque comporta un minimo di contabilizzazioni e automatismi. Ovviamente si prevede che con la prima rata utile, che potrebbe essere a quel punto quella poi di febbraio, il cliente riceva il riaccredito non solo della differenza della rata di febbraio, ma anche di quella di gennaio, di tutte le rate, qualora questa cosa dovesse concretizzarsi ancora più avanti, che non gli fossero ancora state rimborsate. In realtà sembra che entro il mese di gennaio questa cosa possa essere sistemata, quindi al limite si tratterebbe di un ritardo, diciamo, nell'attivazione di al massimo per una rata. Beh, è anche, come dire, fisiologicamente ragionevole questa, non dico scarsa organizzazione bancaria, d'altronde il provvedimento non è ancora legge, lo diventa a fine mese, quindi diciamo, esatto, prendiamo anche diamo intervengono anche, atto anche di una serie di modificazioni. Poi ecco, giusto una nota sul fatto che poi man mano il calo dei tassi, più che vanifichi, riduca la portata dell'intervento. Innanzitutto meglio, perché vuol dire che Già il mercato di suo aiuta i mutuatari. Speriamo che il governo utilizzi queste risorse di No, ma questo ecco, quello che volevo dire è già scritto nel testo anche della Camera, che le eventuali minori risorse utilizzate rispetto ai 350 milioni di euro pianificati verranno destinate al finanziamento degli assegni familiari. Esatto, quindi non sono soldi che poi alla fine lo Stato ha fatto finta di spendere. No, infatti. Tra l'altro, Maximilian, c'è anche un altro aspetto da mettere in luce, che è quello dell'automatismo del riconoscimento di questo beneficio, chiamiamolo così, per chi ne ha diritto, perché non si è ancora ben capito se sarà automatico, si bisognerà richiederlo. In realtà a noi sembrava dovesse essere automatico, qualora il diritto appunto lo si acquisisca se paghiamo una rata che ha ancora un tasso di interesse, compreso lo spread, al di sopra del 4%. Pare che però qualche banca addirittura chieda al cliente di sollecitare l'intervento. Esatto, dunque quello che abbiamo noi fino a questo momento, ricordiamo che ancora una volta che il decreto deve passare, è passato alla Camera, rivisto leggermente, dovrà passare anche al Senato, quello che abbiamo noi in mano per il momento è una circolare ministeriale che chiarisce alcuni ma non tutti gli aspetti. L'aspetto precedente l'ha chiarito anche Roberto Anedda, aggiungo che anche se ci sarà ritardo, l'accredito dovrà essere fatto con valuta di scadenza della rata, per cui se era una rata del primo gennaio, faccio per dire, perché è da partire dal primo gennaio che questo vale, ricordiamo ancora una volta, tutte le rate che vengono pagate nel 2009, dal 1 gennaio al 31 dicembre, esatto, indipendentemente dal fatto che siano rate relative al 2008 o anche al 2010, sono tutte le rate che uno deve pagare nel 2009, quelle del 31 dicembre 2008 no, non perché qualcuno entrare. Giustamente si chiede anche questo. Scusatemi l'inciso. Diciamo, allora, questo l'accredito deve essere rifatto alla stessa valuta della rata, e poi ecco, non c'è scritto niente su cosa deve fare un mutuatario. Questo a parer mio, a parer anche di altre persone, vuol dire che giustamente è automatico, deve essere un automatismo, non ci deve essere nessuna richiesta di raccomandata con avviso di ricevimento. E bisogna fare attenzione a questo, non tanto per i pochi spiccioli che comporta scrivere una raccomandata, ma cosa succede, mettiamo, se le banche chiedono la raccomandata e uno non se ne avvede e non capisce, poi molte persone non capiscono se rientrano nel 4% o meno, perché non è semplice, ci sono alcuni problemi che devono essere ancora risolti, come ricordo, adesso buttiamo ancora nuovi argomenti, i mutui ibridi, quelli che poi vedono il passaggio dal fisso al variabile, dovrebbero rientrare, però ancora nessuno l'ha detto con certezza questo. Ecco, questo sarebbe abbastanza grave, perché può darsi in teoria che una persona non fa richiesta e ne ha diritto e non accede a questo, a questo beneficio, che pare di vedere è un beneficio automatico. Automatico, però insomma noi vigileremo attentamente qualora non lo diventasse. Attenzione, e segnalate, siate pronti a segnalare se qualcuno vi chiede una raccomandata o qualcosa del genere. Allora, abbiamo 40 secondi di tempo prima di dare di nuovo la linea ai colleghi del giornale radio, però riusciamo magari a mettere in cantiere una domanda a cui risponderemo dopo. Paolo da Piacenza, buongiorno, qua va a toccare un altro nervo scoperto, buongiorno. Sì, buongiorno. No, il mio intervento era riguardo alle persone che come me hanno, diciamo, fatto il tasso fisso. Io 2 anni fa, nel 2006, ho fatto il tasso fisso, proprio perché i tassi erano i minimi storici, per cui presumibilmente si sarà aggravato. Di conseguenza praticamente pago. Può parlare volte, un po' più vicino alla cornetta, Paolo, perché non la sentiamo bene. Sì, pronto. Praticamente pago 2 volte, perché pago di più perché era il tasso fisso. Adesso se mettono il tetto del 4%, cioè io pago anche quello che non pago gli altri. Paolo, ci dice quanto ha spuntato come tasso fisso 2 anni fa, così tanto per curiosità? Ma guardi, sinceramente non lo ricordo. Non lo ricordo, perché era il minimo. Avevano girato 3 o 4 istituti, era il minimo, quello che ci sembrava era quello, però non voglio dire una cifra che poi faccio conclusione con un'altra. Non sarà il 7-8%, voglio dire, sarà qualcosa intorno al 5-5,5%. È basso, quello sì. Salvadanaio, siamo ritornati sui mutui questa mattina fra tassi di interesse che si stanno progressivamente riducendo, per fortuna, e il provvedimento del governo che andrebbe in qualche maniera ad intervenire su quelle rate di chi ha un mutuo a tasso variabile che sta pagando un tasso di interesse al di sopra del 4%. La quota eccedente la paga lo Stato, però con la riduzione dei tassi di interesse si è notevolmente ridotta la platea dei destinatari di questo intervento, ma molti ne sono rimasti. E allora come dovrà funzionare la disposizione? C'è ancora non completa chiarezza sul tema, ma c'è anche un'altra ampia platea di sottoscrittori di mutui, quelli che hanno deciso per il tasso fisso negli ultimi anni e che adesso si sentono fuori da questo provvedimento e quindi sono molto arrabbiati. Roberto Anedda, ne abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, però tutto sommato c'è un premio, anche come dire, c'è la sicurezza che non hanno, di cui non hanno beneficiato evidentemente per condizioni di mercato del tutto eccezionali, perché poi questo va sottolineato, chi invece aveva il mutuo a tasso variabile. Sì, esatto, cioè quello che va tenuto presente è che chiunque faccia un tasso fisso in qualunque momento lo fa conoscendo fin da subito quale sarà il costo per tutta la durata del proprio mutuo, quindi parliamo anche per 20 o 30 anni, e quindi si dà per scontato che abbia fatto una scelta innanzitutto razionale tra preferenza per uno o l'altro tasso, ma soprattutto che sia stato in grado da subito di valutare quale sarà il suo peso di lungo termine rispetto alle proprie capacità di reddito, di spesa e così via. Cosa che invece con il variabile un po' non si conosce, quindi ci si assume in parte questo rischio. Quindi il riconoscimento di una situazione di crisi del tutto eccezionale, quella che ha portato gli Euribor, e quindi non il tasso della BCE che è rimasto al 4,25 come massimo, ma l'Euribor a salire di oltre un punto percentuale oltre l'Euribor, ha portato a riconoscere una sorta di situazione di emergenza per questa tipologia di tassi. Non dimentichiamo tra l'altro che l'intervento calmiera, dicevamo anche poco fa, non al 4%, ma al 4% per i mutui che erano stati erogati per un tasso iniziale fino al 4%. Mm-hmm. Per i mutui erogati a tassi, per quanto variabili, superiori, il tasso di protezione è ovviamente più alto e quindi questi non beneficeranno già adesso per nulla o quasi nulla, se non per le eccezioni che citava prima Maximilian, di questa protezione. Quindi altrimenti sarebbe come pretendere che in qualunque momento di mercato io faccia un mutuo, se poi un domani il mercato porta i mutui in generale, di qualunque tasso si tratti, a costare di meno, lo Stato deve intervenire per calmierare questo maggior costo. Questo tra l'altro ci introduce ad un altro tema. A prescindere dalla convenienza economica, che in questo momento è ritornata notevole, bisogna, sottoscrivendo il mutuo a tasso variabile, essere ben consapevoli del passo che si fa. Quindi la convenienza economica bene in una fase come questa, ma in futuro prendiamo anche, come dire, questa lezione che abbiamo ricevuto negli ultimi mesi come un parametro anche aggiuntivo nella nostra scelta, Roberto. Sì, no, infatti volevo completare anche dicendo un'altra cosa, che chi ha fatto, come ad esempio Paolo, il mutuo a tasso fisso alcuni anni fa e ha fatto una scelta ottima dal punto di vista di tutela dal rischio, poiché si è preservato dagli aumenti dell'Euribor che citavamo poc'anzi molto forti, e quindi in alcuni momenti il suo mutuo ha probabilmente avuto un tasso addirittura più basso rispetto a quello che avrebbe avuto con l'Euribor. Quindi in quel caso lì è stato tutelato ed è stato premiato dalla sua scelta. Adesso il mercato sta subendo una situazione diversa, sempre legata al mercato, e questo aiuta a capire perché non ci sia stato un intervento anche a favore dei tassi fissi. Allo stesso tempo è bene che tutti coloro che adesso cominciano a guardare con rinnovato interesse al tasso variabile, proprio perché i tassi sono molto bassi, si parla addirittura di un tasso di sconto che potrebbe andare addirittura sotto il 2%, teniamo presente che si tratta anche in questo caso di una situazione eccezionale, quindi nel medio periodo, in capo quindi a un paio d'anni, nel momento in cui si risolverà anche questo ristagno economico, almeno tutti ci auguriamo che succeda, i tassi sono destinati a risalire. Quindi chi ha un variabile, ancora una volta, secondo me è giustissimo il tuo richiamo, prendiamo la lezione di ciò che è successo, non facciamo i conti sulla rata di adesso, ma su un Euribor che mediamente potrebbe essere almeno come media di lungo termine il 3,5% o il 4%. Quella è una rata obiettivo che noi ci dobbiamo sentire pronti, se vogliamo fare un variabile, di pagare in futuro. Sentiamo quali sono le tentazioni di Antonio da Bari, perché noi stiamo continuando, lo facciamo sempre, a parlare di chi ha già il mutuo. Ecco, Antonio è caduto. In realtà con Antonio volevamo così affrontare il tema di chi sta accendendo un mutuo adesso e qual è la scelta più conveniente da fare, perché tra l'altro tra il variabile e il fisso si è aggiunto anche il mutuo ancorato non all'Euribor, Maximilian, nel provvedimento del governo, anche il mutuo ancorato al tasso di riferimento della BCE. Non appena il provvedimento è stato stato varato, c'è stato insomma in quel periodo una banca che ha lanciato un prodotto di questo tipo, adesso forse l'offerta si sta ampliando, attenzione però che questi nuovi mutui hanno degli oneri un po' più alti. Sì, esattamente, il ricarico della banca, quello che comunemente viene chiamato spread, è più elevato. Già nel momento in cui erano usciti i primi prodotti, dopo l'invito prima di Lorenzo Binismaghi e poi del governatore Banca Italia Draghi, erano venuti fuori subito dei mutui, noi già l'avevamo detto, attenzione, non è che conviene a prescindere dal valore dei tassi, dipende un po' anche da che spread, da che ricarico la banca vi applica. Il primo che era uscito aveva uno spread di 150 punti base, un punto e mezzo, che già allora a noi era sembrato un po' caro rispetto alla media. Poi è intervenuto appunto il decreto anticrisi che ha obbligato le banche a offrire a partire dal 1 gennaio 2009 un mutuo BCE oltre ai normali mutui Euribor, e lì mi verrebbe da dire apriti cielo, perché se 1,5 ci sembrava uno spread abbastanza elevato in questi ultimi giorni, e Roberto Nedda potrebbe aiutarmi. Sì, sì, sì. E anche Luca da Udine ci aiuta per la verità, perché vede che sul tasso ancorato alla BCE ha trovato uno spread del 2,14%. Questo è... Allora, in parte... Diciamo in parte è giustificato uno spread maggiore, perché le banche bene o male i soldi li prendono al tasso Euribor, per cui da una parte il mutuatario ha accesso a un tasso, quello della BCE, che qualcuno definisce semifisso, nel senso che viene cambiato una volta al mese, che è meno volatile e anche più trasparente, e quindi può essere più tranquillo. Dall'altra parte questa tranquillità si paga un po' di più, perché il rischio che ci sia una crisi sugli Euribor tipo quella di ottobre, settembre di quest'anno si scarica sulla banca. La banca cosa fa? L'abbiamo detto mille volte, non è un ente di beneficenza, per questo rischio si fa pagare un po' di più, dipende quanto di più si fa pagare. Io a titolo informativo continuo a ripetere che dal 1 gennaio 99, cioè da quando ci sono gli Euribor, e sono già ormai 10 anni, la differenza tra il tasso BCE, quello che oggi è al 2%, e l'Euribor a un mese, quello che oggi è al 2,12%, è stata mediamente di 16 centesimi. Quindi sull'Euribor a 3 mesi è di 25 centesimi. Un quarto di punto. Ovviamente ci sono stati dei momenti in cui l'Euribor è sotto il tasso della BCE, e lo era fino a ieri, per esempio, e dei momenti in cui... anche complice questa crisi il tasso Euribor è un tasso di mercato, e come tale si comporta, è molto più volatile, però ecco, tenete presente che questo è l'ordine di variazione, 16 e 25 punti. Allora, intanto c'è una persona che non si decide che cosa vuole fare del suo mutuo, che è Angelo da Bergamo. Angelo, benvenuto a Salva Danaio. La sto prendendo in giro. Grazie, buona giornata, che mi avete chiamato. Ci dica tutto. Dunque, io prima avevo un tasso variabile che pagavo 536 euro a 11 anni, adesso mi mancano ancora 5 anni da pagare, però con gli eventi del 2 anni fa, quando l'Euribor era dato le stelle, sono andato a pagare quasi 700 euro. Sono andato in banca, ho ritrattato, mi hanno fatto un tasso fisso e pagavo 583 euro. Adesso che sta calando tutte queste cose qua, posso andare in banca Mi scusi Angelo, mi scusi un attimo però, allora, lei le mancano 5 anni da pagare? Sì, sì. Quanto durava il suo mutuo? 11 anni. Un mutuo di 11 anni, quindi ne ha già pagati 6, ma lo sa che lei praticamente gli interessi li ha quasi del tutto restituiti, quindi io non so se le conviene, come dire, tornare in banca a discutere, magari rovinarsi il fegato per risparmiare che cosa? 20 euro al mese? Non perché li vogliamo buttare via, Angelo, per carità, con tutto il rispetto, magari per lei fa una differenza, però... Ma io pagavo 536 euro 2 anni fa, ed è andata quasi a 700 euro, per quello che ero andato a rivolgere. Perché era a metà del piano di ammortamento, pertanto diciamo, questi secondo me però sono stati gli ultimi effetti. Io credo che da qui in avanti, anche dovesse verificarsi un'altra volta tassi alle stelle, adesso è il fisso, esatto, però fisso. Lui chiede, mi conviene ritornare al variabile? Io il discorso che farei a lei e farei a tutti, allora, cioè, 583... le condizioni di mercato cambiano spesso, come abbiamo visto, e in maniera anche abbastanza repentina. Stare sempre a rincorrere il mercato cambiando ogni volta, ogni piezo spinto il mutuo, e non è una critica a lei, però è un ragionamento che io voglio rivolgere a molti che ci scrivono. Stare a cambiare ogni volta è abbastanza, è un problema, può essere problematico, perché è vero, il decreto Bersani ci ha dato molte possibilità con la surroga e questo è un gran vantaggio, però bisogna essere attenti anche a non abusarne. Nel momento in cui una persona si sente più tranquillo e, come dicevamo prima, accetta di pagare una rata di 583 euro da qui alla fine degli anni, non è che accetta, no, questo, perché... accetta anche che nel momento in cui i tassi torneranno a scendere, chi ha un variabile pagherà di meno. Beh, questo è normale. Io quello che dico a lei e un po' a tutti è: fatevi bene i conti e tenete presente che la surroga è molto interessante, ma non è da usare come in una partita da ping pong, cioè io passo da fissa a variabile nel momento in cui va bene, perché lei adesso magari ripassa al variabile, come diceva prima Roberto Anedda, fra 2 o 3 anni i tassi risalgono ancora, la sua rata torna però a 6-700. Ma secondo me qui, Maximilian, c'è un altro aspetto di un ascoltatore che comunque già oltre la prima metà del piano di ammortamento. Io facevo infatti un discorso un po' più generale, però... perché per molti invece sono ancora nella fase calda. In generale, invece per l'ascoltatore, quando si supera la metà del piano di ammortamento, non è che non ci siano più interessi da rendere, però la quota interessi è molto più bassa, si sentono meno gli sbalzi. In effetti anche il suo, magari a lei è significato qualcosa passare da 536 a 700, certo, ma ci sono, ma anche degli ascoltatori. Adesso c'è ritornato a 583, per cui voglio dire, c'è una differenza di 50 euro rispetto alla sua rata originaria. Io dico che se la può anche tenere con grande serenità e finire gli ultimi 5 anni senza rincorrere, dicevamo, il mercato, però questa è un'opinione del tutto nostra. Il messaggio generale è: non state sempre a rincorrere il mercato. Se prendete una decisione col fisso, accettate una rata che vi rimane sempre così, accettate di sorridere quando gli altri hanno difficoltà sul variabile e anche di vedere le rate del variabile scendere molto. Allora, è sempre incandescente la puntata su questo argomento, non a caso la riproponiamo praticamente ogni settimana, perché poi, tra l'altro, come abbiamo spesso raccontato, negli ultimi 3 anni la normativa è cambiata in continuazione, di conseguenza le banche si sono dovute adeguare, insomma la disciplina dei mutui cambia a seconda anche delle fasi economiche. Stiamo rincorrendo questo settore per capire appunto la dinamica anche delle nuove notizie che arrivano, però c'è anche chi è completamente disinteressato a quello che è successo in passato, guarda avanti. Antonio da Bari, buongiorno. L'abbiamo ripescato, c'era scappato prima, sì. Io dovevo praticamente contrarre mutuo fra qualche mese, e alla luce di tutti questi avvenimenti non so cosa fare, se stare su un fisso più coperto o andare su un variabile, dato che insomma adesso la situazione, diciamo, è più appetibile. Certo, Antonio, per quanti anni si deve impegnare intanto? Purtroppo quello di tutti, insomma, 30 anni. Devo farlo questo già è un parametro di non trascurabile rilevanza, visto quello che è successo negli ultimi 2 anni, una crisi finanziaria senza precedenti, speriamo che non si verifichi e replichi mai più. Detto questo, però, anche questa è l'esperienza che ci deve insegnare qualcosa. Roberto Anedda, allora, facciamo la pura convenienza economica, non abbiamo a disposizione i dati di Antonio, il suo reddito, la sua situazione familiare e quant'altro, però teniamo anche conto che il mercato immobiliare sta andando come sta andando, quindi voglio dire anche il valore delle case magari potrebbe scendere prossimamente, anche questo è un altro aspetto, lasciamolo però da parte. La convenienza economica, il problema è proprio quello del valutarla, la convenienza economica, proprio perché non abbiamo la certezza di quale sarà l'andamento dei tassi, non dico dei prossimi 30 anni per i quali Antonio deve fare il mutuo, ma anche se lo dovesse fare per 15, cioè in realtà è difficile pronosticare quale potrà essere il costo del denaro anche solo tra un anno, onestamente, perché chiunque provi a farlo è onestamente un ciarlatano da questo punto di vista. Quindi vediamo che i tassi di mercato cambiano continuamente. La logica qual è in questo momento di mercato? Che fortunatamente non solo i variabili sono scesi nuovamente ai minimi di mercato, ma gli stessi tassi fissi al momento sono molto bassi, anch'essi sono praticamente ai minimi storici, perché il costo del denaro anche per 20 o 30 anni, il costo del denaro a cui si aggiunge poi lo spread della banca, è inferiore al 4%. Questo vuol dire che si possono fare mutui anche per durate lunghissime, come quella alla quale si accinge Antonio a utilizzare per il mutuo, quindi 30 anni, e sotto sotto il 5%. C'è un ascoltatore che ci segnala che ha trovato su Mutui Online un tasso fisso di 30 anni al 4,70%. Esatto. Lui dice: ho preso al volo questa Esatto. Quindi il concetto è assicurarsi un costo di questo tipo di lungo termine su mutuo, quindi a tasso fisso, è sicuramente un'opzione di sicurezza e anche di convenienza, perché comunque rappresenta una media storica del costo del denaro, pur con lo spread della banca, assolutamente conveniente. Ovvio che se io ragiono su quello che l'Euribor di adesso, cioè il 2%, e la possibilità di fare un variabile che parte al 3%, io posso dire dal 3% fino al 5%, diciamo, senza arrivare addirittura al 4,70%, ho sempre due punti di differenza e quindi forse anche nel lungo periodo questa differenza, bene o male, potrei gestirla. Sicuramente avrò degli anni come questi iniziali in cui risparmio rispetto al fisso, degli altri anni in cui magari il mio variabile sale. Però è sempre un'incertezza e soprattutto nel lunghissimo periodo è anche possibile che tutto sommato il risultato finale di costo tra un mutuo e l'altro non sia poi così differente. Quindi veramente diventa una scelta anche molto emotiva, cioè quanto uno si sente rispetto anche a quanto la propria rata pesa rispetto al reddito, rispetto alla propria situazione familiare, se uno è ancora in una fase in cui dovrà avere dei figli, dipende sostenere poi anche altre spese. Tra l'altro quanto è ampio questo mutuo, perché magari una differenza di due punti percentuali di tasso di interesse sulla rata possono essere un ammontare notevole, così come prima, può essere 300 euro da un mese ad un altro e ci cambia la situazione. Lo dicevo anche prima con la precedente risposta, attenzione a non farsi allettare troppo dai tassi estremamente bassi dal punto di vista del variabile che si vedono adesso, senza ragionare su quello che potrebbe diventare la rata in capo magari anche solo un paio d'anni, perché comunque abbiamo già capito negli anni precedenti che pur non in presenza di crisi particolari finanziarie, se l'economia va normalmente e c'è una certa inflazione, il signor Trichet, o quello che ci sarà dopo di lui, da qui a 30 anni, fino a che Antonio non finisce di pagare il mutuo, considera un tasso di equilibrio in Europa, non certo al 2%, ma superiore sicuramente al 3%, quindi tra il 3% e il 4%. Certo. A questo punto la differenza anche di medio termine di costo tra un tasso variabile e un tasso fisso, con i tassi fissi di adesso, è veramente minima. E allora è su quella differenza che Antonio e chiunque in questo momento voglia fare la scelta deve valutare se preferisce pagare qualche decina di euro in più ma avere la sicurezza che sempre per 30 anni avrà quella rata, salvo poi veramente tra tanto tempo, come diceva giustamente prima Maximilian, utilizzare una portabilità per cambiare la propria situazione di mutuo, ma se veramente ne vale la pena e se c'è una situazione di mercato fortemente teniamo anche diversa. Conto che si è aperta anche questa nuova prospettiva, no? Perché prima non c'era, adesso tutto sommato, ammettendo anche che Antonio possa partire da una rata molto bassa intanto adesso, per cui gli faccia magari nel tempo sopportare un aumento dei tassi se questo movimento sui tassi dovesse riprendere, e se dovesse poi un domani ritrovarsi con una situazione insopportabile, voglio dire, ricorrere anche alla portabilità. Detto questo, Antonio, per 30 anni, però, se adesso c'è anche una convenienza sul fisso allettante, magari prenda anche in considerazione. Io di base, che pure sono un fautore storicamente del variabile, in questa situazione di mercato, perché in realtà non bisogna essere fautori a prescindere, dipende proprio dalla singola situazione di mercato. E questa è una situazione, secondo me, abbastanza irripetibile, in cui c'è una quasi pari convenienza tra variabile e fisso, proprio perché storicamente il costo è simile. Allora, Sergio d'Alessandria, benvenuto. Grazie, buongiorno e complimenti per la chiarezza delle sue trasmissioni. Grazie Sergio, ma questo è il complimento più bello, guardi. La ringrazio. Ascolti, in famiglia noi abbiamo un mutuo variabile a 30 anni. Abbiamo la possibilità... Da quando è partito Sergio? Partito un anno fa. Sì. Allora abbiamo la possibilità di chiedere il passaggio al tasso fisso. Lo possiamo tenere per 3 anni e poi possiamo o riconfermarlo o ritornare al tasso variabile. Sì. La domanda era questa: siccome mi hanno applicato uno spread dell'1%, sì, sul variabile, su quello che ha già in corso, sì. Ecco, passando al tasso fisso, secondo voi devono mantenermi questo spread oppure me lo possono variare? Dipende che cosa c'è scritto nel contratto, Sergio, se la banca si è in qualche maniera anche tutelata, perché per loro è una tutela, non ce l'ho sotto in questo mano, senso. Comunque lo controllo. Ecco, dipende, diciamo, magari la banca può essersi anche conservata il diritto di rivedere lo spread nella fase di passaggio al tasso fisso, potrebbe anche non succedere, Maximilian. Ma io conosco alcuni contratti in cui in generale fissato è fissato a priori, ci sono, c'è la possibilità di cambiare ogni 3 anni e viene applicato degli spread abbastanza standard, 1% sull'Euribor a 3 mesi, faccio, oppure 1% sull'IRS a 3 anni, nel senso se almeno l'arco di temporale è 3 anni. Certo, bisogna sempre guardare il contratto, perché ho ricevuto una mail ieri di una persona che mi chiedeva lumi perché a lui era stato chiesto di rinnovarlo e da uno spread da 1,3% era passato all'1,6%. Mi ha detto, ma si può fare questa cosa? Io ho detto, guardi, non lo so, bisogna che lei legga il suo contratto e mi faccia sapere. Quindi, perché esatto, è un bel caso. Infatti, quello che possiamo suggerire al nostro ascoltatore è intanto verificare se questa era una clausola che comunque la banca aveva scritto nel contratto, qualora non ci fosse e al momento del passaggio al fisso la banca applicasse uno spread più alto, magari ce lo scriva e quindi vediamo di capire anche che banca è. Allora, un minuto di tempo per concludere, non riesco a far intervenire Pasquale da Rimini, prendo io nella mia bocca la sua domanda, ritorniamo con Pasquale al tema di partenza, il tetto del 4% sui mutui e il differenziale che lo Stato si impegna a versare per quelle famiglie che superano questo tetto sui tassi di interesse, come può percepire il differenziale? Pasquale, ancora non l'abbiamo ben capito neanche noi, dovrebbe essere un accredito automatico da parte della banca. Roberto Anedda, magari facciamo l'ultimo flash finale. Sì, su questo. Abbiamo detto, quello che dovrebbe succedere è che il cliente paga la rata normale, ma contestualmente con lo stesso giorno di valuta riceve dalla banca un accredito della differenza tra la rata completa e quello che invece è calcolato con il limite secondo il decreto legge. Questo anche nel caso in cui la banca non riuscisse a pagare la rata di gennaio, quindi anche se venisse pagata a febbraio, questo rimborso avverrebbe comunque con giorno di valuta alla data effettiva di gennaio nella quale la rata scade. Esattamente, però ancora non è, come dire, sottoscrivibile al 100%. No, questo deve passare meccanismo. Ancora in Senato anche la legge definitiva. Abbiate almeno pazienza ancora qualche settimana. Saremo di nuovo qua a parlare. Vigilantes dei mutui. Grazie Roberto Anedda, Massimiliano Cellino per essere stati con noi. Tanto ricomporremo questo trio ancora molto spesso nei prossimi mesi. Grazie a Valeria Coffaro, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Peter Bescapè per l'assistenza tecnica. Noi ci risentiamo lunedì a Salvadanaio e poi anche con un approfondimento economico nel nuovo palinsesto lunedì mattina alle 8:15. Buona giornata a tutti.